questi non vi facciamo così attacco cosa. No, no. Adesso ce l'ho due perché sono alte, ma se no normalmente ce l'ho uno e qua. Non so. Ci vuole un problema di. Non tanto. Ah, vabbè. Vabbè, Antonio. Sgranocchiando stai lì. Vabbè, sempre. Non è mai niente di buono. Fammi venire la marmellata. No, non mi piace la marmellata. A me ne dire mi piace, non sono le kinder e basta. Non me la aspetta, però non lo spingo, tanto la passata. Sono panottini pieni di marmellata. Buono, eh? Questo qua anche tanto mi piacciono. Veramente sì. Sto vado a prendere l'acqua. Però non faccio un attimo di pucidromi, No, sto vado a prendere. Chiudi una volta la poltrona. Oh. Cioè, insomma, vuol dire che lo sta. Oh, sono andato a prendere l'acqua. Ma in genere a me non succede quasi mai. Oh, ma ti faccio i fagottini pieni di marmellata? Sai che cos'è? I fagottini pieni di marmellata. Alla bicocca. Compreso. Ho compreso già. Ti guardi, sì o no? Sì, è già le mangio. Poi sono buono, dove spino a comprarti? Uno 70, ce ne sono qua dentro, ma sono veramente buone già, qua. Non aspetta, qua, sai, non spino che c'è tiro bavone. Sì, ecco. Ci sono quei funghetti con le verdure, poco sono buoni. Quei funghetti con le verdure? Sì. Sottoli, ci sono dei funghetti con i peperoni. Funghetti, peperoni e carote, mi pare che sia. Cazzo quanto sono buoni. Mia moglie ha detto che li ha provati, gli ispiravano e li ha comprati. Ma c'hanno un sapore così buono. E di solito a me i funghi non mi piacciono. E invece questi sono molto saporiti. Poi le mozzarelle sono buone. Guarda che lo smincia la roba buona. Non tutto altro, c'è la roba buona e la roba che non si. Come tutte le parti. Infatti. Quello lì, quello che sta dicendo Luca, gli ho anche mangiati. Gli ho. Che fa così? Qua va. Sì, ma sono cose, diciamo, che ormai sono passate, non li mangio più, me li dico, tranne le kinder qualche volta che Marco me le offre quando le sta mangiando. Uia, c'è tanto a mangiare queste cose qua, mamma mia. Che cose fa così? Io non sono chi, no. Infatti qua molte volte li lascio stare, li lascio, no. Mamma mia. Raga, pensavo per far ingrassare quello. A me non mi importa nulla, no. Te ne importa l'ingrassare? Io rimango sempre io. Ma se ingrassi ti trasfusi? No, io rimango sempre la stessa linea. E che tale, tu sei stato più magro, più grasso. Tu non te ne rendi conto, ma è così, Antonio. No. Stai uscendo le parole a metà. Ma che parole a metà? Il baracchio sto facendo bene. È uscito Luca, secondo te, quando ha parlato? Perché non la prima? La parola che stiamo mettendo è qui. Così facevo. No, perché è un lavoro io, è lui. Lui. E se te so, lui? Io l'ho fatto. E io ti sto avvisando come stai uscendo, non è che ci sono cose diverse. Vedi, allora. Mi ha fatto la ripristino, poi vediamo un errore. Poi che cacchio. so. No, non so, non so. Boh, che palle, sto Windows 7 qua, è una gaggata, è una cagata. Ah, cosa stai dicendo? Ui, certe cose una cagata, tu, a me mi apri il mio, guarda, allora, più che bene. Per come usavo io, non ce n'è per nessuno. Fatto male, sì. Però giù mi avuto Windows 7, la prima volta, perciò. Secondo me per tante impostazioni fa cagare. Perché no? Non conosci le cose giuste per quell'impostazione. Se no te non fa cagare, non preoccupare. Ah, se uno fa di cagare da voi. Ah, io non mi cago, qua non si capisco la verità. Cosa devo dire? Cioè, è molto veloce, eh. È velocissimo, quello sì. Su certi punti è buono, perché veramente tipo apre le pagine, le apre in un attimo. Ma io parlo di impostazioni, tipo quanto la dove vado io, lo stereo mix è un casino, anche se fai settaggi non fa. Li abbiamo provati tutti, non anda, non fa. Faccio XP, è facilissimo. Allora se ti sparecchi il driver dello stereo mix, non fa altro che far settaggio e è una bomba. Sono chiaro a papo per questo stereo mix. Come che bisogna fare? Scopre qualcosa. Mi dice qua. Impossibile completare il ripeto di configurazione di sistema, le impostazioni e i file del sistema del computer non sono stati modificati. Ripeto di configurazione di sistema è possibile che nel computer sia stato accessato un programma. Vabbè, niente da fare, non fa. Se rimani, devo uscire da sé, ma non posso fare nulla. Una cosa alla playa, chi è? Lo dici chi sei? Ho capito che stai dicendo io. Però non ho capito chi sei, mi sta finito. Però. E io già sono qua. Ti sta chiamando. Ma oggi, ma tu sei in fede, già così. Chi è che mi sta chiamando? Non va. A me mi chiamano. Chi mi sta chiamando? Pirino, tu sì. Chi è come il vento? Ciao. Miau. Ma. pensare un pochettino. Va bene, dai, vi auguro una buona notte a tutti. Ciao ciao. Luca Cattagiane.